Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata, alcune rapide informazioni. Sottotiro chiocciola radio24.it, la nostra mail per le vostre segnalazioni. Oggi parliamo con un prete, mi piace usare questa espressione, lui in realtà è un arcivescovo attualmente di Campobasso Boiano, dal 2007 lo è, ma dal 1994 al 2007 è stato un grandissimo vescovo della circoscrizione di Locri-Gerace, un vescovo amatissimo perché aveva il coraggio di parole che spesso erano come pietre calate sulla testa degli 'ndranghetisti, degli uomini comunque di crimine. È un piacere dare il buongiorno, una buona giornata a Monsignor Giancarlo Maria Bregantini. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie della cortesia di chiamarci e poi un saluto affettuoso a tutti gli ascoltatori. Bene, Monsignor Bregantini. Allora io partirei dalla sua attuale esperienza. Lei è arcivescovo dal 2007 in Molise, una regione che quasi sembra non esistere in Italia, no? Perché se ne parla pochissimo. Le chiedo, Monsignor Bregantini, che terra è? Ma non ha certamente i drammi che io ho trovato nella Locride. Le situazioni sono più serene, non ha il dramma di Napoli né la violenza di Foggia o di altre città accanto. Quindi da questo punto di vista ha molte realtà positive, è una realtà segnata da situazioni che non appaiono ma che bisogna essere capaci di discernere, bisogna avere molto la capacità di leggere dentro i fatti e oltre le facciate nei retrobottega della storia. E pochi come lei sono in grado di farlo nella Chiesa, e quindi le chiedo, le pecorelle smarrite della sua diocesi, visto che lei è un pastore di anime, in questo la seguono come la seguivano nella Locride oppure fa fatica visto che comunque non è molto il tempo passato dal suo insediamento? Lei ha ragione, ancora non è stato facile per me innestarsi, un po' perché le attese erano esagerate, un po' perché il Molise è una società un pochino più complessa della Calabria, meno violenta ma più articolata, perciò ho fatto fatica come tutti nel cambio. Adesso adagio adagio, dopo quasi 3 anni, mi sento molto accolto, capace un po' alla volta di muovermi in maniera più serena e contemporaneamente nella immagine biblica valorizzo molto l'immagine del pastore sentinella. Assolutamente, ecco, lei sentinella lo è stato dal 94 al 2007 nella Locride, ha usato parole durissime contro l'andrangheta senza avere mai paura di nominare questa parola. Il suo successore, nei confronti dei quali c'è il massimo del rispetto, nella notte tra il 1 e il 2 settembre a Polsi non ha mai nominato la parola andrangheta. Secondo lei perché? C'è, come dire, una forma di riservo personale, di non esacerbare gli animi, a suo giudizio, ecco. Ma credo che sia una tattica diversa, però con un obiettivo uguale. In fondo lui dice: cerchiamo di coscientizzare di più la comunità cristiana e di rivolgersi a queste pecorelle smarrite con il tono di un padre ai figli. Ecco perché la sua dimensione. Certo, ma lei l'avrebbe usata questa parola, anzi lei l'ha usata, voglio dire, suo è uno stile diverso chiaramente. Sì, ma non c'è nessuna fatica a usarla. Credo che siano modalità differenti, ma gli obiettivi è lo stesso. Sono stessi. Ecco, sì, senta, io ho fatto una domanda capziosa, nel senso che una domanda volutamente provocatoria nel mio blog, quando ho parlato di Chiesa e 'ndrangheta nel passato, nel recente passato, invece anche anni fa, insomma. Cioè, la domanda è questa qui. Spesso, lei mi corregga se sbaglio, Monsignor Bregantini, mi raccomando, quando si assisteva a delle processioni di chiesa con i santi portati, ecco, in prima fila a portare i santi o comunque ad ascoltare le omelie e anche a riempire le buste con dei soldi che poi vengono dati alla chiesa, senza che ovviamente la chiesa sappia che sono soldi che grondano spesso sangue, c'erano proprio gli 'ndranghetisti. Ecco, lei si è mai rivolto contro queste persone in Molise, in Calabria, ovunque lei vada, che riempiono di buste, diciamo così, le parrocchie nei momenti topici, che portano i baldacchini, che si mettono ad ascoltare le omelie? Ecco, ha mai tuonato contro queste persone che sperano di comprarsi il paradiso con un po' di soldi o con un santo portato a braccio? Ma guardi, innanzitutto bisogna un po' demitizzare questa immagine che sta lentamente allontanandosi. La mafia essa stessa si secolarizza. Certamente il passato e anche in alcuni tratti, in alcuni luoghi ancora, la mafia tenta di conquistare o di mantenere queste posizioni. Ma il punto nodale non sta tanto nel tuonare del vescovo o del parroco, ma nel riuscire a creare dei comitati festa puliti, comitati festa che sprechino meno in attività dispendiose, comitati festa che siano limpidi e trasparenti. Cioè, nel passato non sempre è stato così, mi corregga se sbaglio, credo che in Sicilia recentemente ci sia stata qualche evidenza di questo e forse anche in altre parti del sud, ma ripeto, se sbaglio mi corregga lei, monsignore. Cioè, la linea di resistere a queste prepotenze è antica. Io c'ho un parroco, avevo, adesso sono altre diocesi, ma quando ero a Locri avevo un parroco che ha sfidato questo tipo, è stato sparato e ancora i pallini nel mento, pallini che sono rimasti dopo la sparatoria, è tornato, ha perdonato, ma ha vinto lui la battaglia, per dire che sono già 20 anni che si dicono queste cose e su cui la Chiesa si sta già muovendo. Importante la linea che noi stiamo seguendo come vescovi ovunque è di non lasciare solo il parroco, ma che il parroco abbia una linea di comune con la sua gente e soprattutto che insieme anche con le autorità civili si riesca a demitizzare. La linea in fondo che noi stiamo seguendo, specialmente dalla mia esperienza, è questa: non tanto contrapporsi alla mafia, anche questo quando occorre, ma svuotare la mafia, non dire che sono uomini di onore, ma sono uomini cretini che scelgono la morte, che la morte avranno. Linea. Monsignor Brigantini, la ringrazio immensamente di questa chiacchierata e le auguro buona giornata. Grazie di cuore, ecco. Sapendo comunque che ovunque abbiamo bisogno di grandi sentinelle a tutti i livelli, nei giornali, nelle parrocchie, nei comuni, ovunque, l'unico modo per vincere la mafia è stare uniti ed essere vigili e attenti e fedeli. Io la ringrazio per la sua testimonianza, dico grazie in regia a Peter Bescapè, in studio a Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani con una nuova puntata.